Queste sono le tappe dei figli di Israele che uscirono dalla terra d'Egitto, secondo le loro schiere, sotto la guida di Mosè e Aronne. Mosè scrisse i loro punti di partenza, secondo le loro tappe, per ordine del Signore. Queste sono le loro tappe, secondo i loro punti di partenza. Partirono da Ramses, nel primo mese, il 15 del mese del primo mese. Il giorno dopo la Pasqua, i figli di Israele uscirono con mano alzata sotto gli occhi di tutti gli egiziani, mentre gli egiziani seppellivano quelli che il Signore aveva colpito tra loro, tutti i primogeniti. Anche dei loro dei, il Signore aveva fatto giustizia. I figli di Israele partirono da Ramses e si accamparono a Succot. Partirono da Succot e si accamparono a Etam, che è all'estremità del deserto. Partirono da Etam e ripiegarono su Piachirot, che è di fronte a Baal Zephon, e si accamparono di fronte a Migdol. Partirono da Piachirot, passarono in mezzo al mare verso il deserto, e per un cammino di 3 giorni andarono nel deserto di Etam, accampandosi a Mara. Partirono da Mara e arrivarono a Elim. A Elim ci sono 12 sorgenti d'acqua e 70 palme. Si accamparono là. Partirono da Elim e si accamparono presso il Mar Rosso. Partirono dal Mar Rosso e si accamparono nel deserto di Zin. Partirono dal deserto di Zin e si accamparono in Dofca. Partirono da Dofca e si accamparono a Alus. Partirono da Alus e si accamparono a Refidim. Là non c'era acqua da bere per il popolo. Partirono da Refidim e si accamparono nel deserto del Sinai. Partirono dal deserto del Sinai e si accamparono a Kibrot-Tava. Partirono da Kibrot-Tava e si accamparono a Caserot. Partirono da Caserot e si accamparono a Ritma. Partirono da Ritma e si accamparono a Rimmon Peres. Partirono da Rimmon Peres e si accamparono a Libna. Partirono da Libna e si accamparono a Rissa. Partirono da Rissa e si accamparono a Keelata. Partirono da Keelata e si accamparono al monte Sefer. Partirono dal monte Sefer e si accamparono ad Arada. Partirono da Arada e si accamparono a Machelot. Partirono da Machelot e si accamparono a Tacat. Partirono da Tacat e si accamparono a Teerach. Partirono da Teerach e si accamparono a Mitka. Partirono da Mitka e si accamparono ad Asmona. Partirono da Asmona e si accamparono a Moserot. Partirono da Moserot e si accamparono a Bene Iacan. Partirono da Bene Iacan e si accamparono a Orgidgad. Partirono da Orgidgad e si accamparono a Iotbata. Partirono da Iotbata e si accamparono ad Abrona. Partirono da Abrona e si accamparono a Ezion Geber. Partirono da Ezion Geber e si accamparono nel deserto di Sin, che è Cades. Partirono da Cades e si accamparono al monte Or, all'estremità della terra di Edom. Il sacerdote Aronne salì sul monte Or per ordine del Signore e vi morì nell'anno 40 dall'uscita dei figli di Israele dalla terra d'Egitto, nel mese quinto, nel primo del mese. Aronne aveva 123 anni quando morì sul monte Or. Il cananeo re di Arad, che risiede nel Negeb, nella terra di Canaan, sentì dell'arrivo dei figli di Israele. Partirono dal monte Or e si accamparono a Salmona. Partirono da Salmona e si accamparono a Punon. Partirono da Punon e si accamparono a Obot. Partirono da Obot e si accamparono a Ie-Abarim, al confine di Moab. Partirono da Ie-Abarim e si accamparono a Dibon-Gad. Partirono da Dibon-Gad e si accamparono in Almon-Diblataim. Partirono da Almon-Diblataim e si accamparono ai monti Abarim, di fronte al Nebo. Partirono dai monti Abarim e si accamparono nella steppa di Moab, presso il Giordano di Gerico. Si accamparono presso il Giordano, da Bet Jesimot ad Abel Sittim, nella steppa di Moab. Il Signore disse a Mosè, nella steppa di Moab, presso il Giordano di Gerico: parla ai figli di Israele e di loro: poiché state per passare il Giordano verso la terra di Canaan, dovrete scacciare tutti gli abitanti della terra davanti a voi. Distruggerete tutte le loro raffigurazioni, distruggerete tutte le loro statue fuse, annienterete tutti i loro luoghi alti. Entrerete in possesso della terra e dei suoi abitanti, perché a voi l'ho data in eredità. Vi spartirete la terra a sorte, secondo le vostre famiglie: a chi è grande moltiplicherete la propria eredità, a chi è piccolo diminuirete la propria eredità, e avrà quello su cui uscirà per lui la sorte. Vi spartirete secondo le tribù dei vostri padri. Se non scaccerete gli abitanti del paese davanti a voi, quelli che resteranno di loro saranno spine per i vostri occhi e rovi per i vostri fianchi, e vi premeranno nella terra in cui abiterete. Quello che mi ero prefisso di fare a loro, lo farò a voi.